cammino nella giungla, non so chi incontrerò, ascolto gli animali, quale oggi scoprirò. Shh, sento un serpente! Striscio come il serpente. Cammino nella giungla, non so chi incontrerò, ascolto gli animali, quale oggi scoprirò. Sento una scimmia. Cammino nella giungla, non so chi incontrerò, ascolto gli animali, quale oggi scoprirò. Sento un coccodrillo. Mordo come il coccodrillo, crunch, crunch, il bobolo, la scimmietta, la scimmietta. Cammino nella giungla, non so chi incontrerò, ascolto gli animali, quale oggi scoprirò.